Perfetto. Finalmente quest'anno a questo master posso fare una cosa coerente, cioè con coerenza fra quelle le cose che io dico e il titolo, perché mi sono portato dietro un'eredità ormai del tutto immeritata di esperto di immagini mediche e che fa capo ai primi 20 anni della mia attività, che è stata di ricerca con immagini mediche. E qui mi è capitato in tante, avendo lavorato sempre, essendo sempre andato a caccia di territori multidisciplinari, perché credo che sia lì oggi che si giocano le cose, mi sono ritrovato in tanti ambienti, in medicina nucleare, radiologia, informatica, matematica, e quindi vabbè, io ero diventato l'esperto in certi contesti di immagini mediche. Mi sono portato, sono stato cooptato all'inizio di questo master in questo settore. Poi la vita muta, cambiano e le istituzioni non ce la fanno. Questo è il problema centrale. Se vogliamo, è quasi il problema centrale di questo corso. La vita sta cambiando a un ritmo indiavolato e le istituzioni non ce la fanno a tenere dietro. Questo è vero anche in America, eh? È vero dove le istituzioni sono molto più viste, in Italia è assolutamente una tragedia. Allora, nel Master in Medicine è stato l'ultimo dove io continuavo a fare un corso di immagini mediche e parlavo di tutt'altro. E d'altronde è la mia tecnica, siccome le istituzioni non c'è verso, io non ho tanti pazienti fuori perché è poco tempo, e cambio da dentro. Quindi io dentro ci ho iniettato contenuto diverso, poi la gente se ne accorta. Alla fine i vostri colleghi dell'anno scorso si sono detto: oh, che bella lezione l'hai fatto, è stato un caso certamente, però dice, ma il titolo era un'altra cosa, forse c'era, avete ragione, ora trac, finalmente è scattato il meccanismo e ora questo è un corso non più di immagini mediche ma comunicazione online, che è un pochino più attinente a ciò di cui io mi occupo. Questo corso, questo insegnamento molto anche sul metodo, sulla comunicazione. L'online è perché oggi la vita è online, è tanto, ma in realtà è di sostanza anche, eh? Riguarda molto l'insegnamento, riguarda il rapporto con il mondo che cambia, che muta. Come è venuta fuori una cosa un po' atipica così? È venuta, beh, su un percorso convenzionale, e giusto per farvi capire che conosce minimamente chi vi parla, io di come si dice, background ce l'ho in fisica, io sono un fisico, eh? Poi sono finito già dalla tesi a lavorare in medicina nucleare, mi sono occupato tanto di computer, già questo è interessante, no? Sono uscito dalla laurea in fisica, per me negli anni 70, mi sono laureato nel 78, dentro un computer ci potevano essere gli elastici, non mi avevano detto niente. I computer li avevano nei laboratori i professori, però zero totale. A medicina nucleare c'era solo computer. Io ero sconfitto in medicina nucleare in preda a una pazzesca crisi esistenziale, mi pareva di non sapere niente, volevo solo essere utile, quindi quando ho saputo che si doveva fare la tesi in un ospedale sono andato lì, va bene. E lì c'era computer. E allora l'ho imparato piano piano da me. Dopo 20 anni sono diventato un docente, ma di informatica. Passando dalla matematica, perché poi non ho fatto tanto il fisico quanto ho lavorato su strumenti matematici per ricostruire le TAC, le SPECT, le PET, queste cose, e poi mi sono trovato proprio ruzzoloni, spinto dalla corrente, a fare il professore di informatica. Quando è successo questo, mi sembra il 2001, mi è cambiata la vita, perché prima io ero un topo di laboratorio, di biblioteca, stavo chiuso in una stanza a studiare, risolvo i problemi. E poi mi sono trovato invece una didattica mostruosa, perché allo stesso tempo, in modo concomitante, io mi sono trovato l'informatica palmata su tutti i corsi di laurea e quando hanno detto, c'è il formicone, diventa un professore, prima ero ricercatore, diventa un professore, lo schiaffiamo a fare informatica e non c'è nessuno. Infatti io sono rimasto, parlando in termini burocratici, l'unico INF01, si dice, settore interdisciplinare, della facoltà di medicina, che vuol dire in termini pratici 700 studenti l'anno, 20-25 corsi di laurea, e io ho detto, sa qualche cosa, perché è una delle mi ricorre ogni tanto per il corso dell'abbreviato in Filmistica a Firenze, e sedi Empoli, Prato, San Giovanni, Filine, Valdano, quello sono delle Firenze. Un incontro. E informatica di base. All'inizio ero partito con un programmino convenzionale, l'architettura del computer, i floppy. Sono stato costretto a fare esami con i quiz, che è una cosa bestiale, perché chiedere a uno che dovrà fare l'infermiere qual è l'indirizzo IP nei quiz, c'è una cosa poi mi spiegherò meglio, ma vengono fuori delle cose prive di senso, e vengono fuori che la maggior parte delle volte gli studenti di quiz con questi ritmi dissennati che non hanno niente a che fare con l'apprendimento, va bene, con uno sforzo di favorire l'apprendimento delle persone, i quiz li fanno in caso. Cioè, noi professori, bene che ci si chiarisca questo fatto. Io ho visto anche, siccome ho fatto un sistema per quiz online e lo usano anche altri docenti, sicché può vedere le prime volte per aiutare i docenti imbarazzati con questi strumenti, e glielo dico ragazzi, ma guardando i risultati, questi se non lo fanno a caso, poi ci manca. Questa è la settimana scorsa, ma hanno perfettamente ragione, secondo me, perché non si può studiare in questo modo, non si può studiare ruzzolando e buttandola tutta in quantità. Cioè, tutto un discorso da andrebbe completamente rivoltato. E allora io mi sono trovato con questa situazione, mi sono reso conto di un sacco di difficoltà. Prima di tutto, uno si prova a insegnare, bisogna si ponga dei problemi, perché l'insegnamento non è una cosa a senso unico, è un dialogo. Cioè bisogna che abbia un ritorno, perché se io chiacchiero e dentro le persone non succede nulla, io credo che stiamo trattando il mestiere. Allora mi sono trovato, esempio, classe di medicina, 230 teste che mi guardano, spiego l'informatica di base, ma se ci pensate è un libro, perché su quelle io ho avuto a che fare personalmente con circa 6.000 studenti nel 2001, che detto ciò per le statistiche delle sole. Cioè, io so numeri veri, alcuni di questi numeri pochi, ma quelli che so sono veri. L'ho anche misurato a volte. Poi vengono sempre stesse cose. Allora, io so che su questa massa di popolo c'è qualcuno di sicuro che il computer c'ha terrore. Ci sono quelli che credono che c'è un tasto e ci sia, si cancella ogni cosa. Non so più. Saranno anche il 10%. E quelli di molto imbarazzati saranno anche il 20%. Però io nelle stesse classi c'ho anche dei ragazzi e ne sanno più di me, specialmente su alcuni soggetti. Dei ragazzi a 14 anni installano Linux, ma arrivano a 20 anni di, ma cioè, potrebbero fare delle lezioni loro, Come faccio a fare un corso decente in questa situazione? Si potrebbe fare un intervento serio, se io avessi 10 crediti, 15, si fa tutto, ma giustamente in un corso di medicina, infermieristica, dietistica, fisioterapia, bla bla bla, autista, eccetera, di mezzo credito, un credito, tanto si può sperare. E allora io che faccio? Se lezione a chi? A chi parlo? Dopo? Che cosa gli racconto? C'è un'altra difficoltà, che tutte le stime fatte da sociologi, antropologi, sono che la quantità di informazione nuova prodotta ogni anno, oggigiorno, informazione nuova prodotta, raddoppia al ritmo di una volta ogni due anni, e ci sono dei settori che risentono tantissimo di questo. Uno di questi è quello tecnologico, Per resto una cosa, uno qualsiasi di questi gingilli su due anni sappiamo che è vecchio. Quanti strumenti oggi si usano che due anni fa non esistevano e oggi sembrano muovere l'economia? Dal 2000 in poi la storia è tutta fatta di cose così. E io li insegno aprire le finestre in Word, fare stampa unione, per dire le sciocchezze, magari questo possono interessare una volta nella vita, pure se uno lavora in una segreteria, allora metto un altro discorso, io lavoro in una segreteria amministrativa, so che devo fare quella cosa di sicuro tante volte, benissimo, si imparano a quello. Ma gli strumenti così sterminati, che li insegno? Cioè, e poi a tutte queste persone gli ripeto sempre delle cose che sto già potranno soddisfare forse il 20%, ovunque io sposti il mio obiettivo, per te, una cosa che non si può fare. Quindi non vi tedio con tutto il percorso che ho seguito, e arrivo subito alla conclusione, però che è successo? che allora io non gli insegno più niente. Ho tolto per esempio il concetto di, ma ora come dite, questo è pazzo, no? Cioè, ho le spalle coperte, cioè nel mondo che si occupa di formazione sul serio si sta muovendo su queste linee, o linee analoghe, o questa è l'atmosfera comunque. Allora, non ha più senso parlare di contenuti, non ha più senso concepire l'evento formativo come un trasferimento di informazione. Non ha senso da nessun punto di vista, non ha senso nemmeno se si va a vedere i più recenti studi di neurofisiologia, di neurologia cognitiva. Non ha senso questo, non ha senso comunque perché le cose non funzionano, cioè in realtà non sta funzionando la scuola che è rimasta, diciamo, ferma su questo tipo di paradigma. Non sta funzionando perché ovunque, in qualsiasi ambiente di lavoro si va a vedere, c'è sempre una limitatissima soddisfazione per la cosiddetta preparazione delle persone. Cioè tutta questa teorizzazione, tutta questa quantità di conoscenza espressa in forma proposizionale, monolistica, riversata e controllata mediante esami, quiz, ripetizioni, riproduzioni di ciò che ha detto, è una cosa che non ha attinenza sostanzialmente con quello di cui uno ha bisogno. Infatti l'enfasi, tutti coloro che si pongono il problema spostano l'enfasi non su nozioni, ma non è una vera critica del nozionismo, su nozioni e acquisizione di procedure, le famose competenze, ma l'enfasi è sul familiarizzare con un contesto, rendersi autonomi e mettersi in condizione di apprendere autonomamente, perché è questo che la società sta chiedendo. Lo si commenta bene facendo un esempio. Io lo prendo proprio adesso, cado sulla generazione giusta. Scusami, alla prossima, tanto alla prossima. Allora, io sono nato nel 55, e ho un padre che nel 53 si è laureato, ha fatto il dottore. Ecco, fra lui e me, io rappresento la generazione di passaggio. I miei figli sono già in un altro mondo. Mio padre era un altro e io so lì che noi, la nostra generazione, che sì, come un sughero sbattuto dalle onde. Allora, per mio padre era chiaro il contesto, aveva senso il titolo di studio, anche il valore legale forse. E si studia tutta la vita, c'è cioè la fase, la vita è spaccata in due. Non è una, tanti dicono ma il passato, però che questo passato è di molto corto. Perché questo tipo di scolarizzazione è nato nell'Ottocento, ma l'Ottocento è una storia, lasciamo stare l'evoluzione con il nulla, ma è la storia della civiltà, della cultura, cioè sono due secoletti, né niente proprio. Ma non è che prima fossero tutti cretini, vuol dire che Michelangelo, tutta questa gente, ma un po' problema, bisogna di scolarizzazione. È un fenomeno particolare, nuovo, che ha poco a che vedere con l'apprendimento reale e con l'elevazione della persona. E quindi anche la sua capacità, la sua capacità di affrontare il mondo. Allora, per quelli della generazione di mio padre, si studiava tutta la vita per conseguire degli strumenti, poi zac, uno mandava via un lavoro sulla testa, schierata, e poi dopo era pronto, con uno stetoscopio in tasca, un martelletto per i flessi. Entrava all'ospedale, nelle case delle persone, tutto un paio, poteva fare un era del tutto vero. Io ho intervistato Breton in Babbo su questo, ma te come ti senti in mia che fanno della realtà. Comunque, diciamo, è stato possibile calare questo tipo di schema nella realtà. Perché la conoscenza era abbastanza statica da poterlo fare. Ma oggi si stima che in tanti corsi di laurea, tantissimi, ma la maggioranza, quando uno arriva al quarto, al quinto anno, c'è una parte delle conoscenze che aveva, diciamo, rendamente acquisito il primo e il secondo anno, sono già da buttare via, sono già delle scuse. Per non parlare del fatto che quando si lavora, tutti noi già usiamo regolarmente strumenti, procedure e metodi che quando si studiava non c'erano proprio per nulla. Ma allora che vuol dire? Cioè, ma possiamo andare avanti a spingere, a insistere su questo modello formativo? Nel caso di un insegnamentino marginale come informatica di base, spappolato, spammato su tutti i corsi di laurea di una facoltà e anche di altre, non ha veramente senso, perché se io insegno una cosa oggi, anche a livello di procedure, eccetera, poi un ragazzo tra 7-8 anni, la cosa non esiste più, magari. Come si fa a far finta di essere serio? E allora? Allora uno si deve domandare, ma che sta succedendo? Cosa è importante oggi per le persone? Dal 2000 in poi, se uno ha voglia di guardarsi intorno, alzare il capino, alla fine, non è difficile tanto a vedere che è nata una rivoluzione. Questa rivoluzione, vabbè, si può commentare con una frase fritta, cioè il web 2.0. Però le etichette sono sempre malefiche, spesso poi sono buone. Ma in realtà qui c'è del nuovo. Il nuovo è una cosa ben precisa, è il fatto che grazie all'esistenza dell'infrastruttura di internet e all'emersione di una cozzaglia, una serie di strumentini particolari molto semplici, niente di roboante, i grandi progetti si fanno solo nelle istituzioni, in particolare quelli italiani, quando grandi progetti partiscono regolarmente a Topolini e costano un sacco di soldi, allora, le cose che rivoluzionano sono, entrano tutte da un pochino e nessuno l'aveva visto, sono semplicissime, ma c'è un denominatore comune. Allora, per descriverlo focalizziamo un attimo il concetto di massa, perché oggi a questo mondo sa che fare con le masse è una cosa abbastanza evidente, ci stiamo riconducendo come conigli, e siamo ora 7 miliardi, si fa un tempo a imparare la cifra, perché si cresce in modo esponenziale, si arriverà a una saturazione con grandissimi problemi naturalmente, eccetera, ma sta di fatto che le masse ci sono, quindi inutile dire, ma cioè, le masse ci sono, punto e basta, e quando una cosa c'è, bisogna rimboccarsi le maniche, c'è da lamentarsi, poi ci lamentiamo di esistere, diciamo, senza un ginepraio. Bene, allora, le masse però, che ruolo? È nell'Ottocento che la gente si comincia a accorgere che ci c'erano le masse. Leopardi era perplesso a vedere quanti pubblicavano e quanti scrivevano, aveva un problema di quantità. Aveva scritto anche un canto che pochi conoscono del vino, in cui alla fine finisce sulla ricevaria, ma consumando facciamo senza, perché nessuno più rifinisce i lavori. Qui si fa sulla tutto sulla quantità e la velocità, lo diceva lui nell'Ottocento. Nell'Ottocento si comincia a avere questa percezione della massa. Poi la massa è diventata sempre più rilevante, le teorie politiche, il comunismo, la massa, quindi la gente, la massa è sempre stata una cosa amorfa, stupida. Di solito della massa se ne parla in modo negativo come massa. Quando poi le masse sono pericolose, perché possono parlare, però quando si arrabbiano sono dolori, insurrezioni, le piazze, le masse, no, poi è venuto il capitalismo, è venuta la grande economia globalizzata e la massa ha cominciato, la massa e comunicazione hanno cominciato a essere concetti associati, però in un senso solo, cioè la massa si comunica e deve comprare in sostanza, la grande comunicazione è stata questa, attraverso questo poi si dice anche come deve votare, cioè i mass media funzionano così. Quindi c'è stata fino al 2000, diciamo, la massa che è come un bambino piccino, non può esprimersi, poverino, e dargli così dentro avrebbe, però non parla e si chiama qui, va là, sta fermo, ti porcare, questo, ma la massa è stata così. Ogni tanto il bambino si arrabbia, fa gli strilli, fa confusione, ti mette in imbarazzo, ti fermi a ceffoni, è stata la massa, va bene. Dal 2000 è cambiato questo discorso. La massa cominciò a parlare. E non solo ha cominciato a parlare, la massa ha cominciato a fare delle cose, ma delle cose concrete. Perché è successo questo fatto? Perché in internet sono comparsi una serie di attrezzini banali. C'è bisogno di impararli, né di fare corsi, né di fare tanto, tanta gran cassa. Infatti i ragazzi mi parlano di sì, questo deve essere un grande insegnamento. E consentono questi attrezzini alla massa di esprimersi. Infatti oggi la massa produce contenuti, produce roba, non solo. Infatti il grande problema della televisione degli anni 80, figliole, rincoglionissima televisione, mi sto registrando delle parolacce. In realtà sta sparendo, sta cambiando, perché in realtà ragazzi, io ne ho visti 6.000 in questi anni, e stanno più che altro al computer. Si può discutere, non va sempre bene, comunque non è più vero che stanno dove ricevono e basta, stanno dove si possono esprimere. Ma non solo, ma già nel 95 è venuto fuori un prodotto. Ve lo commento brevemente, gli anni scorsi ci ho calcato molto la mano, ora grazie a quanto posso guardare di comunicazione, spendo un po' questa. Allora, il sistema operativo Linux, ma il sistema operativo Linux bisogna avere presente che cos'è, non l'ha mica coordinato nessuno. Negli anni 90 l'industria software era un'industria blindata, la più industria delle industrie, l'IBM, la Digital, la Sun Microsystem, dei santuari dell'industria moderna, dove si producevano prodotti, va bene, si mettevano insieme prodotti che erano protetti, venivano da Microsoft eserciti di ingegneri delle migliori scuole, ingegneria, manager, la crema. È un'industria che è ricca, che ha una grande capacità di fare profitto, e quindi si è potuta, perché si è potuto assumere chi avrebbe potuto assumere anche i pazzi, e ha assunto tutto. In questa situazione che ti succede? Che viene fuori dalla rete, non sto a fare tutta la storia, un prodotto, una cosa, non è un prodotto, una cosa che funziona come un sistema operativo, che ha copiato il miglior sistema operativo del mondo tecnologico e scientifico, si chiama Unix, e l'ha trasferito nei computer popolari. Lui l'aveva trasferito Linus Torvald, non un laureato, uno studente di informatica finlandese in primo anno, al quale il nonno statistico gli aveva regalato il computer vecchio, un PC sarà stato grazie a 7386, una macchina da fare schifo rispetto a queste. Queste si va sul balone, sul mare, tanto si può, volendo, si può calcolare tutto. E lui si è messo in testa, dice: Windows fa schifo, prendo Unix, lo riscrivo, lo schiaffo dentro al PC di mio nonno. Così che è nata sta cosa. E poi che ha fatto? Influenzato culturalmente da quel genio visionario che è Richard Stallman, ricercatore negli anni 70 nel laboratorio di intelligenza artificiale del MIT, il massimo per un giovane brillante a questo mondo, dopo di quello c'è D, c'era essere lì. Lui rinunciò a questo lavoro perché si accorse che l'industria voleva vendere il software a partire dagli anni 70, siccome è un idealista, da tutti mi tiro un fesso perché c'è molto sulla posizione di questi due concetti, allora lui rinunciò e creò il concetto di software libero. Cioè io produco software, ci metto una licenza che chiamo copyleft invece del copyright, dove c'è scritto: te tu puoi usare questo programma, cambiarlo e ridarlo agli altri, però lascia c'è scritto e te l'ho dato io, e rifai lo stesso con gli altri. Tutti nel mondo industriale, i manager, quelli che vedono lontano, ma che sto scemo, e perché se si butta via uno stipendio, la gente ha pagato le tasse, perché lui lo fa il poeta, dove fa. Invece, grazie all'infrastruttura di rete, di internet, che ha un vantaggio, se il concetto di tanti discorsi, internet c'è un vantaggio e crea un cortocircuito a costo zero per i cervelli delle persone e tutto il pianeta. E questa è una magia. Perché se io trovo uno, che è rintronato quanto me, che c'ho la fissa la psicologia delle formiche rosse, al bar nel mio paese non trovo nessuno, ma su internet trovo gli altri pazzi del mondo, li vedo tutti. A livello di infrastruttura. E quindi che è successo? Che Linus Torvald fu influenzato da questa visione e disse, con la nonchalance un po' anche snob di quella generazione, anni 80, 20 anni, io fo solo le cose per divertirmi, non mi frega niente di nulla, l'ha scritto anche su un libro sulla biografia. E ho fatto il kernel, si dice tecnicamente, il nocciolo del sistema operativo Linux, l'ho messo, si dice tecnicamente, e in una celebre nel 91 mandò queste email in internet nei circuiti che c'erano a quell'epoca, non c'erano interfacce grafiche, c'era solo, c'erano dei circuiti di messaggistica con i quali la gente che si occupava di un problema, tipicamente fissati di computer, problemi tecnici eccetera, dice vedete un po' voi, così naturalmente qualsiasi manager avrebbe detto ma capire il mondo. E sì, forse è vero, infatti mi frega niente, a 20 anni si può sognare, bisognerebbe spingere questa fase, perché senza sogni sottieni tutti e quei progetti. E allora questa cosa è successa un fenomeno strepitoso, perché hanno provato dei ragazzotti, non sto dicendo ragazzotti, gente di liceo, la notte è tempo perso, in Australia, da Turicchi con piove, si apre, tutte va, dove si dice, c'è di tutti. E tipo, danzo, però in stampa, sono mia stampante, mi immagino il driver, ecco, sai che non hanno, l'ha messo in rete e Linus Torvald, che anche funziona in realtà. È venuto fuori un fenomeno a palanca. Insomma ragazzi, scusate, non ragazzi, c'è questo difendo. Allora, 91. Software si misura un po' personalmente in riga di codice, aveva messo in rete 10.000 righe di codice. Nel 95 queste righe di codice erano diventate 25 volte di più, sì. E 250.000. Quindi, come vi ho fatto i conti, come avere un tascabile così, aveva scritto un tascabile più grosso di questo, un tascabile così, e dopo 5 anni si sono materializzati altri 24 tascabili. Chi li ha scritti? Altra gente. Voi direte coordinati? No, io sta a casa sua, non ha fatto il suo, ogni tanto arrivava roba, la integrava e la rimetteva in circolo. Nessuno coordinamento. È come quando si spande le braccia a un cane. C'è le condizioni. Uguale, questa metafora non è ardita, è calzante, completamente. Dopo altri 5 anni, nel 2000, le righe di codice ne entrate 10 milioni. Cioè i tascabili, la gente in giro, questi ragazzi ne hanno scritti altri 999. Era diventato un sistema operativo dal 2000, ora sta una, cioè, allora il mercato dei server nel mondo, non guardate i desktop, ma il mercato dei server, il web server deve essere una macchina che funziona solida, non deve risentire di nulla, Linux, i web server, il 70% sono Linux. Cioè quando voi fate click, come il grande dittatore fa girare il mappamondo, quello ripiglia, voi fate zac, mettete il dito a caso su un posto del mondo, quando fate click è questo, no? E andate a beccare gli scorici di un server che può essere a Hamilton in Nuova Zelanda o a Compiopi o a San Beach o a San Francisco. Ecco, su 100 di questi click a caso 70 sono serviti dalla macchina Linux. Ma come può essere accaduto una cosa del genere? Questo è un prodotto della massa. La massa è là e ha avuto degli input di qualche tipo, il terreno è fertile, l'infrastruttura c'è e la massa produce delle cose. Nel 2001 IBM ha investito $1 miliardo facendo lavorare un migliaio, 1500 mi sembra, ricercatori nei suoi laboratori per integrare Linux in tutti i suoi computer, in tutti i suoi sistemi. Cioè Linux è diventato il sistema operativo di IBM, ma guardate che IBM non era un outsider, IBM ha costruito sistemi operativi dagli anni 60, cioè le banche di tutto il mondo hanno funzionato con i sistemi operativi IBM e le macchine IBM. Nel 2001 hanno messo lì e ci hanno investito $1 miliardi. Ma non solo, il secondo passo è ancora più significativo. Nel 2003 ha annunciato l'IBM, credo che produca, però lo siamo lì, sia la, produca più brevetti di tutte le industrie, di tutte le aziende del mondo. E non so quante migliaia, una cosa del genere. L'IBM ha una ricerca e sviluppo, vabbè, celebre anche, con i mezzi per l'IBM, università, in tutto il mondo. E ha dei brevetti su software costruito su software open source Linux, ha rimesso in circolazione, cioè liberalizzato brevetti, per un valore totale di $40 milioni. C'è un'intervista di mi ricordo l'intervista sull'Economist, apparsa nel 2003-2004, dove il responsabile della divisione proprietà intellettuale dell'IBM, responsabile della divisione proprietà intellettuale dell'IBM, non della filiale di Firenze, ha detto: "It isn't because we are nice guys, non è perché siamo diventati buoni, è perché ci siamo reso conto che fra i modelli di business oggi non bisogna trascurare questo, specialmente in questi settori, perché si fa profitto". Cioè, se uno si è speso $1 miliardo, non si è preso $2 miliardi. Allora, qui c'è un radicale cambiamento di paradigma. E non possiamo mettere a fuoco sul concetto di proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale nell'industria, diciamo nel mondo delle aziende, è sempre stato chiuso nella cassaforte in fondo, nascosto bene e protetto perché pensi la concorrenza. Cioè, si è sempre visto questo in una chiave per cui un'idea che ho trovato io, bisogna stare attento, non la faccio vedere perché sennò me la ruba la concorrenza e fanno la concorrenza. È cambiato completamente, si è liquefatto il concetto di proprietà intellettuale, per cui i manager delle industrie più viste vedono la cosa così: io ho top proprietà intellettuale e una parte mi conviene distribuirla nell'ecosistema economico, perché questo ci ritorna poi, perché è un interesse anche comune, diciamo. E naturalmente il problema è diventato in che misura, magari in che forma. Ci sono degli episodi clamorosi della Procter & Gamble, che ha messo alcuni dei suoi progetti di ricerca liberamente, diciamo in una forma d'asta nel mondo, per cui se c'è un ricercatore in qualche parte nel mondo, una persona senza titoli, questa storia dei titoli lo so, una persona mi risolve il problema, io lo pago intanto anch'io e risolvo il problema. E c'è un'azienda di estrazione mineraria canadese che non riusciva a trovare siti dove fosse conveniente, no? una più grande società di estrazione dell'oro in Canada, e un manager che aveva messo alla posta del chief executive manager perché era in crisi, non capiva niente di estrazione minerale, ma era un finanziere molto vispo e aveva fatto un corso di aggiornamento al MIT, Massachusetts Institute of Technology, aveva visto la storia di Linux, fu fulminato da un aeroplano e disse al consiglio di amministrazione: ora si fa questa cosa, si prendono le mappe dei terreni su cui abbiamo la concessione e estrazione in tutto il mondo, le mettiamo in internet e vediamo se qualcuno ci risolve il problema di trovare i siti buoni. Naturalmente il consiglio di amministrazione è fatto da tutti i vecchi geologi, ingegneri minerali, sono pazzi, cioè questa proprietà intellettuale devo proprio morire, questo è benissimo che conviene, ma non ci vedremo, io ho tornato tutto il lavoro, scrivo da ciuffare, ma non è che andavano malissimo, e lo fecero. In capo un anno fece un'asta di $500 milioni, insomma una cifra grossa, e loro in borsa hanno fatto un salto strepitoso perché hanno trovato un sacco di siti che i loro ingegneri non avrebbero mai trovato, soprattutto e questo è molto istruttivo, la soluzione non era venuta da gente accreditata. Uno dice, ho bisogno di risolvere un problema di estrazione minerale, o da un ingegnere minerario, o da un geologo. No, le soluzioni, alcune dei profili erano venute da matematici, da studenti, da militari da genio in pensione che avevano acquisito una particolare, e soprattutto erano soluzioni innovative che andavano a, avevano le radici in settori che non c'entravano apparentemente niente, ma che la persona aveva, che aveva suggerito, aveva associato a quel problema lì. È quella che si chiama, vabbè, è il valore della serendipity, la casualità, cioè in questo mondo così sterminato, se io butto un problema mi vengono fuori soluzioni che non avrei mai potuto ottenere in un laboratorio scritto con un faccio. Ora questo, tanto se abbiamo parlato un po' di Linux, un pochino, ma soprattutto del fatto che c'è qualcosa di nuovo, cioè siamo in presenza di conoscenza e metodi che stanno evolvendo al ritmo. Dopo un anno le cose sono cambiate spesso, e siamo in presenza di una massa che risponde, una massa attiva, viva. Solamente la massa contiene tutto, cioè io non sto conoscendo la biologia della massa, la massa contiene anche i profili, i discorsi, ma la massa contiene tutto, il mondo ha sempre contenuto tutto, non è una novità questa. È solo che ora la massa è più connessa e quindi si può connettere e collegare per il bene e per il male, come al solito, ma anche questa non è una novità, anche il coltello è uno strumento straordinario, ma è anche uno strumento di morte. Se c'è un tasso di gente morta di coltello da quando è stata inventata, ora dovrei vietare, no? Cioè, allora l'internet con questa capacità di connessione è uno strumento che stravolge il mondo. Ora, alla massa va associato il concetto di rete. La massa funziona perché gli elementi che la compongono sono in rete. La rete è un elemento della natura, non della tecnologia, della natura, che sta avendo molta rilevanza nella scienza. Per capire il fenomeno della vita, come è sorta la vita, per capire tantissime cose. E finora noi abbiamo visto sempre il mondo costruito come sistemi chiusi, con il modello positivistico dell'Ottocento. In realtà la natura funziona con le reti, è un misto di organizzazione e di reti. E questa rete internet non è altro che un ennesimo strato di rete, sovrapposto alle reti dei nostri neuroni, alle reti di cellule di cui siamo composti, e all'interno di ogni cellula le cose funzionano perché c'è una rete di molecole e via dicendo, e così così via. Quindi non è una cosa al di fuori inventata dall'uomo che mina, no, è un passo dell'evoluzione. Se lo si legge così si cominciano a capire alcune cose e forse a imparare a usare. In questo contesto si inserisce l'apprendimento e la comunicazione, l'apprendimento, l'insegnamento sono, diciamo, fanno parte del mondo della comunicazione. Ma magari ci sarà un modo di approfondire di più. Ora caliamo, però io vi voglio lasciare oggi con delle indicazioni precise. Questo percorso che io ho seguito è arrivato 2 anni fa a una fase ora abbastanza consolidata, perché vabbè, ogni anno è diverso, perché no, non può non essere diverso. Il giorno che mi accorgo che fa 3 anni qui la stessa cosa, non ne può, segno che sono fuori strada, perché il mondo non sta a fermo. Allora, però, diciamo, si è abbastanza configurata la cosa, nel senso che i miei studenti fanno un blog. Allora, io dico loro, invece di comprare il quaderno, mi diceva una volta, eliminiamo a calci la fase del prof che fa le diapositive PowerPoint e dà le diapositive agli studenti. Quello è un pacco, quella è degenerazione culturale, quella è una cosa per cui bisognerebbe essere buttati fuori con l'insegnamento, perché non ha niente a che vedere con, è un pacco totale. È un po' come la tecnologia calata nella scuola, come le televisioni calate nelle baraccopoli di nero, fa la stessa impressione sostanzialmente. Un mondo che non cresce, c'è questo lucidino. Allora, ogni studente ha il suo blog, il quaderno. E se c'è un altro vecchio lo può usare, se lo può fare nuovo o diverso lo può fare, se non ha mai avuto lo fa, impara a farlo. E lì ci scrive le cose, se c'è da scrivere. Il fatto è che per farlo lui è costretto a fare tutta una serie di cose con che io ottengo il risultato, come grasso che cola, che lui ha fatto al laboratorio informatico, che ha imparato a fare se. E dopodiché io ho il mio blog, io non ho più cattedra, anche perché come fa una cattedra, cioè questi studenti fanno. Allora io sono nel blog, gli fa solo una o due lezioni agli studenti, le prime, dopodiché si comunica attraverso questa chiamata blog o classe, ma non sparisco fisicamente, perché tutte le ore che ho fatto credere come lezioni normali a tutti i corsi di laurea e non ho toccato, perché le istituzioni non vanno toccate per fare innovazione, è una parola di discorso. Ti cresce sotto il naso e poi dopo tutti dicono, oh guarda, ma se uno la pianifica con le istituzioni non nasce niente, ci muore. Allora preferisco fare una girata. E allora in quelle ore lì io sono disponibile, ora comincio i corsi il 2 di marzo, lunedì, e tutte le mattine avrei lezione, io ho solo le prime due. Poi gli studenti sapranno, verranno informati, che io sono lì 3-4 ore al giorno a disposizione. Io sono lì a lavorare, perché oggi è il mio ufficio, io posso stare in macchina con il mio computer, lavoro come a casa, non c'è più questo problema di essere in un posto. C'è il problema di cosa fare, fare il tappeto, la parte e cosa fare. E tu le puoi fare ovunque in questo settore, non c'è bisogno di essere in un posto, tantomeno di fare altre linee, schierate del genere. Tantomeno firmare frequenze, però per il passato non significava, non mai avuto significato, ma ora proprio non c'è per niente. E allora che succede? Che io sono disponibile, per cui io sono disponibile per lo studente albanese che non aveva visto un mouse, mi è successo, e io ho messo la mano sulla sua, e l'ho toccata, gliel'ho mostra, e dire guarda la fai tappa, clic se ama, e quello non c'è cazzo, Come sono disponibile a discutere con quello che ha cambiato 18 distribuzioni di Linux, si prova a discutere, io cerco di starli a passo e cerco di darvi un po' di visione generale, sono disponibile per tutto. Cioè, se i ragazzi vogliono fare un seminario, 3, 5, 20, 200, si fa. E poi questi ci sono, fisicamente. Ma durante il percorso io ammollo ogni tanto dei post, loro devono vedere i post, devono imparare a usare il feed RSS, anche voi. Questo corso dovete fare questo, forse si può fare, non so. Usare il feed RSS per seguire i blog degli altri, questo crea la loro classe. E allora loro vedono che io ho scritto qualcosa. Loro vedono che ho scritto qualcosa e sono dei compiti, in realtà a me dei compiti, non me ne frega assolutamente niente, sono dei pretesti per farli riflettere su cose rilevanti. In qualche maniera, alcune meno, alcune di più, ma sono dei pretesti per fargli fare qualcosa, poi alla fine le fanno da sole. Io voglio che diventino autonomi, vogliono che si abituino al fatto che non esiste più il computer, queste cose, esistono dei punti di accesso con la grande macchina siamo noi in definitiva, è la rete su cui accedono le cose e loro lì possono esprimersi, comunicare, fare delle cose e naturalmente se possibile cercare di fare idee. In modo utile, loro devono imparare questo. Al momento in cui loro hanno acquisito questa autonomia, via, non mi interessa che un insegnato Word, non c'è più Word, non è più niente. Loro sanno scrivere dentro qualsiasi pagina di testo, che ci hanno provato, perché ci hanno provato divertendosi, le loro idee però possono metterci le canzoni, tutto, perché è tutto esercizio, è tutta autonomia. Io ho centinaia e centinaia di lettere, sono accessibili. Ragazzi, alla fine tantissimi sono entusiasti, dicono quante cose si è imparato in questo corso, ma io ho insegnato quasi tutte in senso tradizionale, ho dato tantissima atmosfera. Quando qualcuno è triste, ad esempio spesso le ragazze che hanno questa diligenza e vorrebbero il manuale, scritto le istruzioni, sono scolarizzate in maniera bestiale, sono abituate a avere le istruzioni, io ho bisogno che tiri fuori, io guarda, ma ho sbagliato professore, non esiste lo sbaglio, è un dono. L'evoluzione è andata avanti forse, togliti, rispondi male ai genitori e alle persone che hanno sbagliato. Bene, con lo sbaglio, laddove te capisci lo sbaglio, hai imparato, capito? Questo è fondamentale. E allora li tiro fuori, io lavoro su questo. E quando poi sono fuori, dopo hanno la sensazione, per esempio c'è qualcuno che dice, professore, ma ho levato anche un virus, io neanche gli ho parlato di virus, o ho le dispense scritte, ma se le lascio, glielo dico nemmeno a volte. E poi mi posso di tanto, siccome io uso Linux Mac, io i virus non li conosco, io non so che sentito dire, uno li so levare, e che uno mi ha tolto. Quindi glieli insegno, e cambia l'antivirus, cambia tutto, il malware, ce n'è sempre di nuovo. Però loro hanno acquisito autonomia e fiducia, per cui imparano da sé e vengono a dirmi grazie per avermelo insegnato. E poi io insegnavo altre cose, io ho dato fiducia, non gli ho dato la competenza. Questo è il ruolo dell'insegnante, tirare, familiarizzare le persone, non dargli delle cose e poi l'anno prossimo sono andate a male. Questo noi dobbiamo mettercelo in testa in qualsiasi professione. Famoso aggiornamento professionale, se rischierate, totale, anche se mi registro, non frega nulla. Ora dovrò fare un congresso d'aggiornamento, ma è una sciocchezza, ma è veramente una cosa stupidissima. 3 domande all'inizio per vedere quanto tu sai, arrivo lì, 2 ore di apostille con PowerPoint, 3 domande in fondo, quello è apprendimento. Ma questi regimi si fanno crediti così, è un mondo fuori strada, il mondo corre, travolgerà tutto questo. Allora, con questa esperienza è successo che io sono stato spalmato e con grossa difficoltà su altre facoltà e corsi di laurea. Io insegno anche scienza della formazione, un insegnamento si chiama tecnologia di comunicazione online, e nella laurea magistrale teorie della comunicazione al primo semestre. Al secondo semestre ora insegno anche alla Italian University Line, che è l'università telematica con sede a Firenze ma con consorzio di 5 università, dove si insegna a operatori della scuola, professori e insegnanti, le nuove tecnologie, e gli insegna una cosa che quasi non so, almeno detta così, editing multimediale. In realtà è la visione che ho, sì, quella l'ho presente, ma io ora metto le mani su questi filmini come l'ultimo dei buddisti, ma non è quello il punto, e quindi mi ci sono andato a crescere. È un'occasione per rinforzare il discorso. Cosa faccio tipicamente? Quindi voi, allora, c'è una blog classe di quelli di medicina. Ora c'è una blog classina di master in medicine, ma c'è una blog classe di professori che fanno gli studenti alla IUL, io le mescolo tutte. Per cui gli interventi sono incrociati e voi vedrete ciò che io faccio con gli studenti di medicina. Potete mescolarvi. Nelle mie blog classi entrano anche operatori della scuola, non c'entra niente, sono diventato amico e collaboratore di una maestra elementare pugliese vestissima, che è un sistema universitario allo sfascio, non riesce a integrare, ti parlo di questo, che è una collaboratrice brillante, trovata così, è entrata, ha cominciato a parlare con i miei studenti, ma li conosco tanti, ormai c'è una comunità di amici, quindi la programmazione è trasparente, è composita e permeabile. Al primo semestre io frequento sempre, già 2 anni precedenti, ho frequentato un corso universitario online, in America, dove siamo più visti, si è visto, no? C'è una abbastanza diversa di anni anche, malgrado tutti i problemi tremendi che terrorizzanti che ha quel paese, diciamo, però sanno cambiare, sto diventando altro. Noi non ci riusciremo neanche a niente, i nomi delle cose, ma poco di più. I buboni che abbiamo ci crescono solo tanti anni, ci cambiamo tutto. E allora faccio questi corsi online. L'ultimo era sul connettivismo, l'ultima teoria, diciamo, detta così, dell'apprendimento, sull'apprendimento, 2000 partecipanti in tutto il mondo, una divina, una cosa tremenda, dove si partecipa, ognuno con il suo blocco. E io mescolo questo, ho mescolato il primo semestre, in quella comunità, 2000, poi siamo rimasti un centinaio attivi, diciamo, io ho un centinaio di compagni di scuola, un islandese, il Sudafrica, in 3 parti. Però lì facevo lo studente, ma siccome il tema era sull'apprendimento, facendo io anche il professore per i miei studenti e facendolo in modo sperimentale, ho utilizzato i miei compiti, le mie assegnazioni ai miei studenti come compiti in veste di studente per il mio corso, giusto? Cioè io do un compito in modo strano con una tecnologia strana mi ha studiato, mi ha studiato, si diverte, e va avanti, e poi il professore. Da quegli altri viene visto come un professorino che fa lo studente, che fa un esperimento, e l'ho presentato come compito ai miei professori in Canada, perché il tema era quello. E quindi ho intrecciato, ecco, vedete, questo è un esempio per dire la grande potenzialità di Internet, la flessibilità tremenda, che consente di sposare, amalgamare e far fiorire comunità in modo assolutamente impensabile. Allora, voi come vi coinvolgete? Cosa ci siete? Da 2 di marzo, cominciò sabato, il 1 di marzo, no, il 28, poi allora, il 2 di marzo comincio la prima lezione, c'è di odontoiatri, il martedì c'ho i medici, poi verranno vari infermieri durante l'anno, e poi cominciano anche quelli della IU. Allora, io ho fatto che poi imparo a fare le cose, ho fatto una procedura di iscrizione semplificata, quindi vi do un paio di indirizzi, da lì poi succede tutto. E io in realtà ho allora, con me non si compra nulla, cioè nulla da studiare di contratto, le cose le scrivo io, oppure si trovano nel mondo delle Open Educational Resources. Cioè oggi un professore geloso delle sue cose è un professore che sta morendo, perché non è così il mondo della cultura della conoscenza. Chiudere e proteggere i propri prodotti. Io, professorino dell'informatica, grazie, ma di professorini o meno, una mezza tacca o meno, nel mondo decine di miliardi. Che problema? La mia descrizione del bar. Cioè, io, ragazzi, io lo descrivo così. Se a qualcuno di voi sa tagliare meglio la descrizione di uno che trovate nel mondo, discutiamo insieme, non sapete. Cioè, imparate a cercare le cose, che è così che si fa oggi. Allora, io ho 3 colonne che sono il mio blog, è dove io do il ritmo, quindi voi nei vostri feed RSS dovrete imparare, dovete creare un blog, imparare a usare i feed RSS, che vuol dire, la cosa detta in italiano, usare un sistemino gratis che c'è in internet, fatto da Google, tutto gratis, si comprano un po', il sistema indipendente, questa storia, Windows, Mac, non c'è più questo, il mondo è là fuori, tutto là fuori. Allora, voi lì avete usato questo sistemino dove vedete dei siti che vi interessano, quelli sono cambiati dall'ultima volta che avete letto. Una cosa geniale, semplicissima. Ecco, dovete imparare a usare questo. Tranquilli, lo fanno tutti. Cioè, per chi lo sa, cioè lo scusa, che va benissimo. Chi non lo sa usare, imparano tutti questi regali. Io lo spiego, io vi dico, guardate, leggete questo, poi fate due prove, se poi avete problemi, chiedete prima a un amico e dopo a me, e poi lo fanno tutti. Dopodiché, fatto questo, dovete seguire naturalmente il mio blog per vedere se ho partorito qualche cosa, di azioni. Per voi vale anche, io do tutto, nel senso do un compito, se vi chiedo ragazzi, orientatevi un po' sul PDF, cos'è il PDF ragazzi? Scrivete un pezzettino, cercate di orientarvi, poi scrivetelo, vabbè voi sto, però voi vi fate vedere l'ho fatto e seguite cosa succede, cosa viene studente. Poi c'è le pagine wiki dove ci sono tutte le mie dispense, quelle storiche informate che mi fa però aggiornare dagli studenti quanto più dopo possibile. Ma le enfatizzo poco perché i contenuti non hanno senso, ma che devo io? Cioè io devo pensare ai miei studenti, a cosa cambia nelle loro teste, mica devo passare il mio tempo a aggiornare la velocità della DSL standard, andate a vedere un Wikipedia, c'è chi aggiorna per conto suo, cioè che senso c'ha? Lo si capisce subito quanto è peggio. C'è bisogno che il professore in una scritta. Io voglio che non faccia uno studente, voglio passare il tempo a scrivere. Questo semplifica, ma insomma, certo. Quindi pagine wiki, in pagine wiki si possono scrivere contributi collaborativi. Poi c'è anche tutta la struttura, l'organizzazione dove io prendo per mano l'inizio lì, vi do un indirizzo, cominciate a seguire e ci sono i testi da leggere inizialmente dentro l'atmosfera, 300 metri. E poi c'è un'altra cosa inventata sul semestre, il daily. Daily è una cosa dove io, è un bloghettino semplice, fatto con lo stile di Twitter, semplificato al massimo, tutto WordPress. Io, il mio budget per questa didattica mostruosa, ho fatto il conto uno scorso, sono stati €249. Non posso pagare la tasca mia, non c'ho bisogno. Sono diventato un professore senza portafoglio. Non ho più questo vincolo di dover avere, chiedere finanziamenti, perdere tempo, vendere, non vendo nulla. C'è una roba là fuori, su quella. Le più grosse, le più entusiasmanti esperienze didattiche nel mondo sono fatte a costo zero. Il problema è che si fa, non è di allocare le risorse. È sciocchezza la tecnologia. La tecnologia ci sta calando addosso come un vestito. No, diffidate da chi vi dice per fare questo bisogna tipicamente le istituzioni, tutta la nostra parte, ci vogliono delle risorse. È una questione priorità. Allora. Il daily io scrivo di tutta questa massa di roba che leggo quotidianamente, una cosa mi colpisce, la segnalo con un link. Cosa succede? Succede che questo dà un po' di filo del conduttore, perché io scelgo le cose cercando un po' come correggere un timone, no? Cioè commento di straforo, spesso i messaggi che do li do lateralmente, perché una cosa in realtà da fare è per dare un'idea di che cosa. Cos'è più importante o meno importante? Quindi c'è un contributo interessante, uno studente lo segnala. Crea anche una competitività positiva, perché la gente è tutta contenta, ragazzi, hanno diciamo, ci stanno i daily. E allora questa è una cosa che impasta, funziona bene. Beh, sono queste tre cose. Agli studenti della IUL propongo, cioè devo fare editing multimediale, allora lì ci sarà una fase dove indagherò. Sulle loro esigenze professionali, questo lo potreste fare anche voi, cercheremo di vedere insieme quali sono delle cose che concernono l'editing multimediale potrebbero essere interessanti subito, prestissimo nella loro attività. Bene, impariamole insieme, vediamo, cerchiamole, chi ne sa di più lo comunichi agli altri, mettiamoci a livello e proviamo a crescere insieme. Bene, speriamo. Vediamo. Allora, gli indirizzi. Ecco, questo si può usare? È giusto? Permanente, no? Sì, sì, perché ho visto le carte. Dunque, il blog, l'indirizzo è questo. IAMARF.wordpress.com. WordPress.com. Un servizio standard gratuito, niente, c'è niente da chiamare. Questo è il mio blog. I post che vi concernono saranno in una particolare categoria di post sono gli articoli che vengono, ma la trovate nel wiki, perché la prima cosa, qui ci potete vedere dentro, io scrivo un sacco di cose, tempo, gli studenti, sto collaborando con delle comunità di insegnanti che si occupano di innovazione nella scuola, invece ci sono parecchi contributi. Poi c'è il wiki, ecco, questo qui è http://info.medfi, era nato in informatica medicina a Firenze, non me lo tengo, sto perdendo tempo, pbwiki.com. Anche questo l'ho usato per alcuni anni gratis, poi qui mi sono sdato, ho speso un $200 l'anno per avere un minimo di controllo, ma tutto il budget mi consente di fare backup in maniera più ampia, diciamo, e anche gestire gli account degli studenti, ma è uno strumento strepitoso. Non ha senso tutto questo ambaradan, il server, ho bisogno delle risorse, come ci vuole il tech, siamo in Italia, non ci riesce a organizzare nulla, e subito si nascono i privilegi, e poi dopo il tecnico vuol dire la sua, perché c'è il problema, che c'è un ruolo, allora quel ruolo va rispettato. Siamo vecchi, ragazzi, il mondo funziona più così. Cioè, il server poi dopo 2 anni è vecchio, devo ricercare i soldi, i fondi, e diventare un mezzo politico. Io in parte specie non lo so fare, quindi sono, per questo poi ci sono strade. E questi servizi, ma questi sono tenuti in delle batterie, in delle farm, delle server farm del mondo, ultra ridondanti, hanno centinaia di migliaia di clienti con i migliori ingegneri e tecnici del mondo. Ma devo rivaleggiare io un hacker all'ufficio con l'Università di Firenze che non riesce nemmeno a tenere gli studenti saldi, ragazzi, un mini saldo per una gestione dissennata fatta solo di vecchio. Qual è, cosa si è partorito? Si chiude il sabato, si risparmia la luce, ma vi rendete conto, ragazzi? Ma io mi sono vergognato. Io ai miei studenti gli fo delle proposte indecenti, ma te ci capita? Vieni con me, si fa un gruppo, si fa un servizio di distribuzione delle dispense. I ragazzi, ho un servizio, si chiama, ve lo farò conoscere, MedWiki, fatto dai ragazzi, dai miei studenti, tirati fuori gli studenti di medicina, non della facoltà del corso di laurea informatica, che hanno scelto, si è discusso insieme, io ho solo ispirati, non di più. Poi si sono scelti loro il content management system, nell'open source, se lo sono confezionato. Gli hanno fatto un servizio di distribuzione delle dispense, in 2 anni 60.000 documenti scaricati. Se c'è un ragazzo brillante, fa degli appunti ganzi, li mette dentro. E se buttava all'aria questo commercio schifoso tipico all'italiana, con 3-4 furbacchioni di fotocopisterie che rivendevano le fotocopie estinte con gli errori di 5 anni fa, e noi professori si fa finta di niente, questa è la nostra qualità. Ma come? Ma nel mondo la gente, il MIT è da 10 anni che distribuisce tutti i corsi online, quindi noi professori si tendono nelle brache nascoste le diapositive PowerPoint, che non sono nulla di fatto, va bene? E al MIT fanno dei corsi, tutti li hanno messi online, c'è gli studenti in India che li studiano i corsi del MIT, e noi si deve andare a mediare le fotocopie alla fotopisteria dei troiai di dispense. Ora diventa una cosa fantastica, a costo zero con gli studenti. Questo è il futuro. Qui io ieri sera l'ho riorganizzato un po', per cui già nella home page vi dovreste orientare, c'è scritto tutto, ma la prima cosa grossa che c'è scritto è iscrizioni primavera, mi piace detto così, 2009, e si apre una pagina semplicissima per tutti uguale, voi studenti di medicina, infermieristi, a tutti. In questo link, in questa pagina c'è scritto tutti su questo link, e c'è un link modulo di iscrizione, voi ci cliccate e si apre un modulo dove ci mettete nome, cognome, matricola, il vostro indirizzo di email, quando avrete fatto il blog, fatelo rispettare che l'abbiate fatto, se ci avete, ci mettete l'indirizzo del blog, e poi c'è un sondaggio mio, perché io ho bisogno di creare qualità e quindi vi fate le domande prima, che ce l'hai con gli user, che li usi, piacereste, non piacereste, e così via. E su questo poi io miglioro, no, io cerco, quindi un contributo io vi chiedo, io vi ringrazio, se no non vi iscrivete. In fondo vi rifarò delle domande e serviranno a capire, e vi chiederò giudizi impietosi, ho sempre fatto così, ad ogni studente che è passato dalle mie classi ho sempre chiesto quanto ha fatto schifo il corso che ti ho fatto, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, criticamelo per favore, e questo è il mio timone. Bene, vi scrivete, e che cos'è questo modulo? È un modulo fatto in Google Docs, per cui quando voi mettete dati vanno a finire in una pagina, un foglio di lavoro tipo Excel, in Google Docs, posto zero, da lì. Mi mando lo scarico e su quello lavoro. E mi trovo tutto il tabulato di tutti gli studenti. Siccome dovete dire anche il corso di laurea, infatti 4 volte che posso fare suddivisioni, e questa è una gestione. Costo zero, grandissima liquidità nello scorrimento delle informazioni, risposte notevoli, perché io a volte sbaglio, perché questa massa è considerata che ora c'è 203, insomma, io, compresi voi, mi palleggerò, detto così, un 400-500 persone in questo semestre, ma riesco a rispondere, salvo errori che capitano, e riesco a rispondere entro 48 ore a tutti, e sono invitati a scrivermi. Gira anche il mio cellulare, fra gli studenti, nessuno ne usa. Lo useranno il mio cellulare, rivolteranno. Cioè, quando io rispondo per email, a volte c'è, a volte non c'è, insomma, non ce l'hanno. Però io entro 48 ore e rispondo. Quando sbaglio, gli dico, ragazzi, se non rispondo in 2-3 giorni, riscrivetemi, perché anche un sistema anti-spam mi può bloccare l'email. Bene? Quindi riscrivetemi e io mi scuso e rispondo sempre. Con questo, perché posso fare questo? Ma perché uso questi sistemi estremamente fluidi, che posso usare da qualsiasi parte. A volte mi appoggio in un bar, mi tengo in un bar, rispondo per me, è un divertimento, quindi non viene. Non c'ho stress, non c'è orario, cioè questo rapporto è estremamente fluido. Quindi voi, e qui, qui ci sono le istruzioni, ho messo degli articoli da leggere, e poi via via, quindi ci avete da leggere, che l'ultimo di una sessantina è come, si chiama coltivare le connessioni. Sono tre post che ho fatto nel blog, hanno avuto molto successo agli studenti, li ho trasformati in un pamphlet che ho messo libero, liberamente disponibile in internet, e io vi invito a leggere queste cose. E poi da qui si impasta il discorso. Quando poi ci rivedremo, l'orario non lo ricordo più, metteremo appunto eventuali, insomma, ci vuole il contatto fisico e basta. Il daily lo troverete qui dentro, non sto a dire niente di più, questi sono quelli importanti. Io direi che posso bastare così. Il mio indirizzo è IAMAV, è diventato così perché all'inizio, quando ero preso dalla disperazione perché mi sentivo solo nel mondo, non trovavo fra i miei colleghi rispondenza su queste sperimentazioni, lanciai una mia collega, la chiamò così, un messaggio nella bottiglia nell'oceano di internet. Fece un sito a mani nude, molto ingenuo, dove ci misi, lo scrissi non con la tecnica ma con la passione, era un urlo proprio, e lo chiamai insegnare a prendere e mutare, perché io credo che l'insegnamento debba in realtà, l'enfasi deve trasportarsi sull'apprendimento, l'insegnante deve quasi scomparire, deve essere lì dietro, il vero maestro, e perché poi l'apprendimento ha luogo se c'è un mutamento, se non c'è un mutamento non succede niente. Quindi IAMA, e poi nella rete io sono noto così, ARF, perché mi hanno Andrea Solo per Formiconi, e quindi diventa un mio logo. Quindi IAM. Bene? Non dobbiamo fare il blog con lui adesso, io non saprei neanche da che parte devo entrare. Tu leggi le cose che ho detto e per un anno supporto. Guarda, sto riuscendo a far funzionare a tecnologia, a scienza della formazione, ci sono studenti che non vengono frequenza, non c'è l'ossessione della frequenza assoluta, c'è la potenza di scienza. E quindi io ho persone, c'è una ragazza di Lecce, una di Napoli, all'inizio erano disperate, a furia di piccoli contatti email, in realtà sono casatissime, fanno il blog. Mi scrappo. Facilissimo. E alla prossima. Ciao a tutti.